5F. Ascolta e rispondi. Dove hanno aspettato? Hanno aspettato al bar. Dove hanno lavorato? Hanno lavorato a Bologna. Dove hanno ascoltato il concerto? Hanno ascoltato il concerto a teatro. Dove hanno aspettato Luisa? Hanno aspettato Luisa a casa.